Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori a questo momento di approfondimento sui giornali, sui giornalisti, sui fatti del giorno. Vi ricordo il numero verde a cui potete chiamare, 824 0024, e saluto Giulio Anselmi, direttore della Stampa. Buongiorno direttore. Allora, La Stampa, giornale di Torino, un giornale storico, fondato, come dice la testata, nel 1867, oggi apre un po' come tutti gli altri giornali: Berlusconi, polizia nelle scuole, linea dura contro le occupazioni, il napolitano, le contrapposizioni non servono. Diciamo che la prima pagina di oggi è stata una prima pagina obbligata, c'è anche la notizia dell'altro crollo, purtroppo, a Wall Street. Quindi i giornali hanno uno schema abbastanza rigido, Giulio Anselmi. Hanno uno schema abbastanza rigido, come tutte le volte che una notizia si impone molto nettamente su tutte quante. Poi naturalmente l'analisi della notizia fa la differenza, cioè c'è chi prende atto semplicemente dell'esistenza di manifestazioni e della dichiarazione del premier Berlusconi di mandare la polizia nelle università occupate. C'è chi considera questo tipo di decisione la trasformazione del dissenso in un reato, c'è chi, come per esempio abbiamo fatto noi, considera che queste frasi di Berlusconi rischino di peggiorare la situazione incendiando le università e stabilendo una sorta di ponte tra la manifestazione in atto nelle scuole, nelle università, in molte città italiane e la decisione del Partito Democratico di scendere in piazza sabato contro il governo. Ecco, tu proprio nella prima pagina metti molto in relazione questi due avvenimenti, l'articolo di Federico Geremi, che è proprio di piazza in piazza, si riferisce proprio ai due eventi, e anche sul sabato del Partito Democratico hai un perché sì e perché no, che sono peraltro di due tuoi collaboratori, Riccardo Barenchi e Lucia Annunziata. Allora, questo fatto sia diciamo di mettere in relazione i due eventi è certamente fare un passo avanti dell'interpretazione, nell'offrire ai lettori un'interpretazione. Ma il mettere il perché sì e perché no non è un po' un lavarsi le mani? È infatti una soluzione alla quale ricorriamo raramente e malvolentieri, proprio perché è quello che tu dici, finisce con l'essere una soluzione pilatesca. In questo caso però, mentre abbiamo voluto dare una interpretazione complessiva di quello che sta succedendo nelle piazze, nelle scuole italiane, per quello che riguarda esattamente l'opposizione, il Partito Democratico, che è davvero diviso e molto, molto, molto, molto separato sul cosa fare, e abbiamo ritenuto appunto di dare, attraverso due collaboratori che sono notoriamente appartenenti a quest'area, abbiamo voluto cercare di raccontare quello che all'interno degli elettori del PD sta capitando. Ecco, ma su questo punto sì, sono d'accordo, io ho fatto un po' la domanda provocatoria, però penso che sia proprio opportuno che spesso i mezzi di comunicazione diano degli aspetti non solo da una parte, ma da più parti, non siano necessariamente faziosi, ma presentino la realtà anche sotto diverse prospettive, come la realtà di fatto. Ecco, un'ultima domanda sotto questo fronte, non pensi che ci sia troppa politica sui nostri giornali? Ma dipende, allora, se per politica noi intendiamo storie di potere, retroscena, vicende che riguardano singoli di non grande notorietà, micropartiti, microcorrenti, sì, effettivamente noi indaghiamo su tutta una serie di movimenti sottopelle della politica che interessano davvero a pochi protagonisti. Se intendiamo per politica, viceversa, quelle che sono le grandi vicende che muovono la società e che la politica in qualche modo cerca di interpretare, penso per l'appunto alla scuola e al relativo tentativo di riforma, beh, in questo non ce n'è mai abbastanza, insomma, di racconto, di interpretazione. Mi pare però che la tua domanda sia tuttora giusta, ma stia tentando di raccontare un cambiamento in atto nei giornali. Raccontavano durante un dibattito alcuni miei colleghi pochi giorni fa che la politica è scesa nei giornali del 20, del 30, del 10%, ora questo non lo so, non conosco esattamente questo tipo di studi, se ce ne sono, ma quello che è indubbio è che la gran parte dei quotidiani cerca ora di dedicare il suo primo sfoglio a vicende non politiche, salvo naturalmente appunto questioni davvero interessanti, davvero determinanti nella nostra vita sociale, come appunto questo della scuola, come la crisi economica, che appunto invece è un'altra questione. Ecco, la crisi economica è certamente un altro aspetto che è sulle prime pagine dei giornali. In prospettiva i giornali rischiano di creare un po' di angoscia, mentre in questo momento ci sarebbe bisogno di fiducia, direi nonostante lo scenario internazionale, in fondo dobbiamo avere fiducia quasi per contratto. Pensi che sia possibile uscire da questa crisi ricordando e ribadendo la necessità di avere fiducia, Giulio Anselmi? Ma io sono convinto che si debba avere fiducia, intanto perché è l'unica via d'uscita. Ed è nell'interesse di tutti, però noi non possiamo fare a meno, come giornalisti, come informatori, di raccontare quello che succede, e ad avere fiducia ci devono aiutare anche coloro che per ragioni istituzionali, penso a ministri dell'economia, penso a banchieri in tutto il mondo, devono stare attenti a non fare dichiarazioni che si rivelino manifestamente infondate. Noi abbiamo assistito a una prima fase nella quale sembrava, almeno in base a queste dichiarazioni, che la crisi finanziaria si dovesse fermare agli Stati Uniti e non arrivando oltre Atlantico, e abbiamo visto che era palesemente un falso. Abbiamo assistito a una serie di dichiarazioni in cui si cercava di garantire che l'economia reale non sarebbe stata contagiata dal male, e anche questo era un altro falso. Ecco, è anche necessario che noi siamo in condizione però di fare dichiarazioni credibili, proprio per essere credibili a nostra volta agli occhi dei nostri lettori e delle persone che dobbiamo informare. Poi devo dire, noi abbiamo un interesse obiettivo a raccontare quello che capita, cercando però di non angosciare i nostri lettori, che lo sono già per tutta una quantità di vicende sul terreno della sicurezza, sul terreno del costo della vita. Io ben volentieri, come credo tutti quanti gli altri giornalisti, avrei evitato di mettere un altro titolo sulle borse, l'altro il crollo di Wall Street, cosa che abbiamo fatto ieri sera a giornale che non lo prevedeva in prima pagina, perché a un certo momento la caduta dei listini era arrivata sul Dow Jones fino al 7%, quindi è evidente che quando capita una cosa del genere noi non possiamo ignorarli. No, le notizie sono sovrane, bisogna darle indubbiamente, anche se poi l'interpretazione deve essere altrettanto capace di spiegare come mai questi fatti avvengono, e noi siamo come giornalisti testimoni di una realtà che spesso non ci offre tutti gli elementi appunto per giudicarla. Sentirai insieme un ascoltatore, Attilio da Milano. Buongiorno Attilio. Sì, buongiorno. Ci dica. Io non ho visto la stampa perché sono in viaggio per Torino questa mattina. Volevo fare solamente una domanda: ma perché i giornali non analizzano le notizie e parlano solamente di quello che si dice in generale? Perché la riforma Gelmini, i giornali l'hanno analizzata? Assolutamente no. Io posso portarle due esperienze personali. Una è questa: ho un figlio all'università e un figlio alle superiori. Tutte e due hanno portato a casa dei volantini dove c'è sempre su falce e martello, movimento operaio e roba del genere. Sciopero, sciopero, la scuola è occupata. Per che cosa? Ho telefonato a 10 insegnanti e 10 insegnanti, 9 su 10 mi hanno detto sì, io faccio sciopero. Ma per quale motivo? Non lo sapevano. Ora io dico, i giornali si rendono conto dell'informazione traviata che fanno? Io la ringrazio di questa domanda molto provocatoria, però forse bisognerebbe anche che gli insegnanti leggessero i giornali. Giulio Anselmi. Beh, il nostro ascoltatore ha certamente ragione in linea di principio, cioè in linea di principio capita che i giornali diano per risapute le notizie sulle quali poi si incardinano scontri, polemiche e così via, soprattutto quando le vicende durano nel tempo. Però ecco, mi sembra che sulla vicenda Gelmini i giornali non si siano limitati a parlare di grembiulini, i giornali hanno dato tutta una serie di informazioni su quali sono i criteri orientativi della riforma, sui tagli dei costi, che poi sono il punto principale di polemica. Per quel che riguarda il mio giornale, noi abbiamo fatto addirittura pagine di informazione sulle singole scuole dei singoli paesi di montagna che non dovrebbero essere chiuse perché a fronte di un certo risparmio ci sarebbe davvero un disagio eccessivo per alcune popolazioni, quindi nel rapporto costi-benefici che ogni riforma deve tenere presente, e questo sarebbe solo e tutto dalla parte dei costi, e il ministro ci ha addirittura risposto per iscritto con garbo e con puntualità. Quindi i giornali hanno spesso le loro colpe, è chiaro che i giornali non possano riproporre tutti i giorni le questioni, forse possiamo farlo con più frequenza, ma non possiamo tutti i giorni dedicare una pagina a quello che già tante volte si è scritto. Vale anche però che spesso chi protesta è in cerca di una motivazione per protestare, a prescindere. Noi sappiamo bene che la scuola, con questo ma anche con altri governi, ne testimone il tentativo di riforma di Berlinguer, diventa semplicemente il brodo di cultura dell'antagonismo, per poter avere un'occasione per andare in piazza. Grazie, direttore, ti chiedo un attimo di pazienza, così come la chiedo agli ascoltatori. Abbiamo delle notizie urgenti sul traffico. Tariffa nobile di Dynamiting, l'energia che ti serve. 800 903 900 vi presenta Che strada fa? Massima attenzione sulla 16 Napoli-Canosa, nebbia molto fitta tra Cerignola e Candela, 30-40 metri soltanto di visibilità. C'è un incidente sulla tangenziale ovest di Milano, un tamponamento tra vetture, si viaggia in coda all'altezza di Assago in direzione Laghi. Sulla 10 dei Fiori invece si viaggia in coda sempre dopo un incidente fra Armaditaggio e Sanremo in direzione Ventimiglia. Sulla 14 Adriatica coda per lavori tra Ravenna e Castel San Pietro in direzione Bologna. C'è un cantiere sulla 22 del Brennero che causa qualche difficoltà per chi arriva da Modena, non è possibile mettersi sulla 4 sia verso Brescia che in direzione Padova, per questo ci sono difficoltà poi in ingresso sulla 4 in emissione a Verona Sud e in uscita dalla 22 del Brennero a Nogarole Rocca. Tanto traffico per raggiungere Roma, difficoltà su via Salari anche per un incidente al chilometro 20 in direzione Roma, altre difficoltà su via Cassia per lavori e su via Casilina coda in direzione Piazza Lodi. Che strada fatta, una tra un'ora. Promo 24. Il successo di un'auto dipende da chi la guida, e chi ha guidato una Volkswagen Passat sa come berlina e Variant siano sinonimo di comfort, affidabilità e sicurezza. Ora Passat offre molto di più: una ricca dotazione che comprende il filtro antiparticolato e il climatronic compresi nel prezzo, e gli allestimenti con navigatore, sensori parcheggio e cerchi in lega di serie. Fino a fine anno, inoltre, Passat propone speciali promozioni e leasing agevolati per agenti di commercio, promotori finanziari, agenti immobiliari, aziende già clienti Passat, e a tutti i titolari di partita IVA una serie di vantaggi ai quali sarà difficile rinunciare. Scoprirete così che viaggiare con Passat conviene. Informazioni presso le concessionarie Volkswagen. Dietro la notizia. Grazie a Giulio Anselmi che è con noi. Giulio Anselmi, direttore della Stampa. Sentirei insieme Ruggero da Roma. Buongiorno. Buongiorno, l'intervento era focalizzato sul fatto dell'ingenuità con cui a volte i giornalisti giustificano le proprie, diciamo, intenzioni nel fare informazione. Rilevo solamente che i mercati non hanno perso più dell'altra settimana, almeno a chiusura di ieri. Se lei legge continuamente i giornali dalla settimana a oggi, potrà notare come sembra sia caduto il mondo, perché bruciano, a sentir dire, le informazioni centinaia di migliaia di miliardi ogni giorno. Questo è un esempio di come sia un'informazione, diciamo, tendenziosa la notizia, comunque alla spettacolarizzazione dell'evento e non a una corretta informazione. Beh, se posso intervenire in parte io la ringrazio, però ecco, i mercati quando cadono, la percentuale di caduta è una percentuale matematica, su questo non dovrebbero esserci discussioni, e peraltro il fatto che ci sia la crisi lo dimostra, che dall'inizio dell'anno un indice come il MIPTEL è sceso del 44%, il che non è poco. Giulio Anselmi, che ne pensi? Giancarlo Fabi, hai detto molto bene, e posso solo aggiungere che questo desiderio che ci viene attribuito di vedere le cose negativamente e di considerare notizia solo disastri, rovine, tragedie, in parte è vero, in parte no. Cioè, noi saremo i primi ad essere ottimisti, anche perché non siamo soltanto giornalisti, siamo anche cittadini, siamo persone, abbiamo i nostri risparmi, voglio dire, non abbiamo alcun particolare piacere ad enfatizzare crolli di borsa, timori di recessione, contagi all'economia reale, rischi di disoccupazione e mancanza di credito da parte delle banche alle imprese. Cerchiamo di dare conto di quello che succede, anche, devo dire, con una preoccupazione in più: non abbiamo alcun desiderio di fare giornali uguali tutti i giorni, che ormai da settimane sembrano stampati in serie, sempre con grandi cadute di borse, siano di volta in volta quelle americane o quelle asiatiche o quelle europee. Quindi prendiamo atto, ahimè, di una realtà in larga parte non prevista e pesante. Certo, la realtà è quella che è e non è quella che noi vorremmo che fosse. Noi vorremmo fare dei giornali, vorremmo fare delle trasmissioni dando delle buone notizie, però cerchiamo un po' anche di alleggerire. Per esempio, sulla stampa di oggi si parla della crisi, ma si parla anche di come nutrirsi al tempo della crisi. Ecco perché bisogna puntare su prodotti di stagione locali, come sollevarsi un po' l'animo di fronte a un buon piatto, che poi appunto i bisogni essenziali e una certa tranquillità, una certa serenità si possono trovare anche con le cose semplici. C'è un messaggio SMS, direttore, dice: quanto pesano gli editori nei giornali? Anche voi avete un editore, tutti hanno un editore. Ma gli editori nei giornali possono pesare nei due sensi. In un senso, avere un editore importante è in qualche modo una garanzia per il giornale. Per esempio, pochi giorni fa io ho partecipato con i direttori dei principali quotidiani italiani, compreso Ferruccio De Bortoli, direttore del Sole, a un dibattito sull'autorevolezza a Milano. Ecco, tra gli elementi che concorrono a fare l'autorevolezza di un giornale, naturalmente ci sta anche il gruppo proprietario. Però ecco, il che pone al tempo stesso tutta una serie di problemi al direttore e alla redazione sulla loro capacità di essere autonomi, perché gli editori come primo interesse hanno di solito quello di giornali che funzionino, giornali che pesino. Capita che ci siano editori che tendono a servirsi del loro giornale per propri interessi. Ecco, quando questo capita, il direttore e la redazione devono essere pari al loro compito, cioè devono garantire l'autonomia della testata. Grazie, abbiamo Angelo da Milano. Buongiorno Angelo. Sì, buongiorno. Purtroppo io mi trovo d'accordo con i due ascoltatori precedenti e comunque il mio intervento voleva essere solo questo. Io noto che i giornali sono sempre dalla parte dei manifestanti. Per carità di Dio, siamo in democrazia, io sono d'accordo sul fatto che uno può manifestare, ma i giornali non hanno parlato minimamente in questi giorni anche del diritto di chi vuole studiare o del diritto degli insegnanti che vogliono insegnare. Cioè, qui sembra che tutti vogliano superare basta per i giornali. Mi sembra che le notizie sono sempre ed esclusivamente da una parte e sempre esclusivamente da un certo verso, ecco, questo è il mio intervento. Grazie Angelo. Beh, forse fare di ogni erba un fascio e parlare di giornali complessivamente non è troppo corretto. Ci possono essere dei giornali che appoggiano le manifestazioni, dei giornali che sono critici verso queste manifestazioni, e di fatto ci sono. Giulio Anselmi. Ma io francamente i giornali sono tanti, ci sono giornali più vicini al governo che naturalmente enfatizzano con favore la dichiarazione di Berlusconi. Noi del mettere in risalto che la dichiarazione di Berlusconi consapevolmente o meno rischia di essere incendiaria, diciamo nel nostro editoriale, ben inteso, è assolutamente giusto che chi vuole andare a scuola, all'università, a seguire le lezioni possa farlo e sia messo in condizione di farlo, lo diciamo esplicitamente nell'editoriale. Quindi se invece l'ascoltatore vuole rilevare piuttosto un'altra cosa, che i giornali danno spazio alle cose più eccezionali, perché dovrebbe essere eccezionale una occupazione, beh, questo sì, questo fa parte del nostro modo naturale di operare. Grazie Giulio Anselmi, vorrei concludere rapidamente con una battuta. Allora, di giornali abbiamo bisogno, ci sarà sicuramente un futuro per i giornali e per l'informazione. Beh, io non credo che abbiano ragione gli studiosi americani, che alcuni dei quali dicono che attorno agli anni 20 di questo nostro secolo i quotidiani potrebbero finire. Profezie del genere sono state fatte tutte le volte che qualche nuovo media, radio, televisione, internet è entrato in funzione e poi i giornali si sono assestati. Certamente i giornali devono tenere conto che probabilmente per tutta una serie di considerazioni, nuovi media ma anche free press, i quotidiani tradizionali come noi oggi li conosciamo dovranno ridimensionarsi, e per reggere avranno una sola arma, quella della qualità. Grazie mille, grazie a Giulio Anselmi, direttore della Stampa, di essere stato con noi, grazie a quanti ci hanno seguito. Tra poco Viva Voce si tornerà a parlare di scuola e di università, con noi l'appuntamento è per domani.